Buonasera a tutti e a tutti. Questa è Gatto Selvaggio, lavoro, precarietà e conflitto, in onda su Radio Asilo. Nuovo buonasera a tutti e a tutti. Apriamo questa puntata purtroppo parlando ancora una volta di morti sul luogo di lavoro. Nella notte tra martedì e mercoledì è morto in ospedale qui al San Leonardo Matteo Leone, un operaio di 34 anni che lavorava al porto di Salerno. È l'ennesima persona che un giorno va al lavoro e non torna mai più a casa. Intanto il governo discute di appalti senza regole, al massimo ribasso, e di sbloccare i licenziamenti. Vincenzo De Luca invece continua a indicare come il male del mondo chi percepisce il reddito di cittadinanza invece che farsi sfruttare per un lavoro stagionale massacrante, sottopagato e senza alcun diritto. È nato un lavoro, è nato un'ira, e muore l'ira. Qualche giorno fa il presidente dell'Istat, Blangiardo, ha reso noti i dati di uno studio che evidenzia il fatto che nel 2020 in Italia la quota dei poveri ha raggiunto i livelli più alti mai osservati, con addirittura circa 1 milione di persone che sono finite in stato di povertà assoluta. E allo stesso tempo il 2020 ha anche segnato una forte riduzione della speranza di vita, con una riduzione di circa un anno a livello nazionale e 2 anni e mezzo in Lombardia. I picchi maggiori ovviamente si sono registrati nella provincia di Bergamo, proprio lì dove ai primi segnali che il fenomeno avrebbe potuto avere una dimensione e dei risvolti tragici, si è detto che la produzione non poteva essere fermata, e dove i lavoratori e le lavoratrici hanno continuato ad andare nei posti di lavoro senza adeguate protezioni. Sempre il presidente dell'Istat, quindi non certo un nemico della classe dominante, ha affermato che un prezzo così alto pagato in termini di vite umane è dovuto anche e soprattutto ai tagli alla sanità. Tagli che hanno comportato un aumento dell'età media dei medici, una riduzione della forza lavoro e il conseguente aumento di carichi di lavoro. Una situazione che è crollata con l'arrivo della pandemia. Nonostante quindi i dati fotografino una situazione di povertà diffusa in aumento, è in queste settimane in discussione il decreto sul blocco dei licenziamenti. Inizialmente il blocco sarebbe dovuto essere prorogato fino al 28 agosto, ma Confindustria, con il suo solito atteggiamento di piangere e fottere, ha fatto pressioni affinché rimanesse la data prevista dal precedente decreto, cioè il 20 giugno. Le richieste sono state percepite dal governo, che perciò ha ridotto il numero di scaglioni da 2 a 3. In questo modo le grandi aziende inizieranno a licenziare a partire dal 30 giugno, mentre per le piccole imprese la cassa integrazione straordinaria finirà il 31 ottobre e dopo quella data inizieranno i licenziamenti. Se pensiamo che solo 3 mesi fa l'INPS erogava ancora la cassa integrazione Covid a 530.000 persone, è facile immaginare quanti potrebbero essere i licenziamenti nei prossimi mesi. Bene ricordare comunque che la cassa integrazione straordinaria per il Covid è interamente a carico dello Stato, mentre quella ordinaria, alla quale avrebbero dovuto fare ricorso le aziende se fosse stato prorogato il blocco fino a fine agosto, è pagata da un fondo cofinanziato da imprese e dalle trattenute sul salario dei lavoratori. Con questi dati, la Banca d'Italia stima la possibilità di 560.000 licenziamenti, una prospettiva che però sembra lasciare indifferente il governo. It's criminal! È evidente che il mondo del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici non ha santi protettori in Parlamento e può quindi perciò solo contare sulle proprie capacità di lotta e di mobilitazione. Bisogna alzare la testa, far sentire la voce, scendere in piazza contro queste decisioni. Così come è successo venerdì scorso 21 maggio a Roma, quando il Sicobas ha indetto una manifestazione a seguito della mancata apertura di un tavolo istituzionale sulla vertenza FedEx. Qualche settimana prima, infatti, era stata occupata la sede del Nazareno del PD, che aveva portato poi ad un incontro con il ministro del lavoro Andrea Orlando, il quale si era impegnato a sollecitare un interessamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del ministro Giancarlo Giorgetti sulla vertenza FedEx. Però nelle due settimane successive, invece, dal MISE non è arrivato nient'altro che silenzio. E anzi, il ministro Giorgetti pare abbia incontrato addirittura i vertici FedEx che avevano confermato il loro piano di licenziamenti di massa. Allo stesso tempo, intanto, veniva stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del settore trasporto merci e logistica, che su un piatto della bilancia mette una manciata di aumenti salariali risibili, mentre sull'altro fa pesare un netto peggioramento delle condizioni normative dei lavoratori. E ancora una volta si assiste alla solita dinamica per cui a pochi spiccioli di aumento vengono barattati dai sindacati confederali e dal governo con un taglio ai diritti dei lavoratori. E in questo clima, nella mattinata di venerdì, quindi, una delegazione dei magazzinieri da Piacenza, Milano, Torino, Bologna, Roma, Caserta e Napoli sono arrivati a Roma e sono partiti in corteo da Piazza Barberini fino a Montecitorio. Qui, dopo circa un'ora e mezza di attesa, non avendo ricevuto alcuna risposta e non essendoci stato alcun incontro, i lavoratori hanno deciso di spostarsi verso Palazzo Chigi. A quel punto però la questura di Roma ha sbarrato subito la strada al corteo e in questo modo ha alimentato ulteriormente le tensioni che erano già forti e palpabili e questo ha portato quindi a degli scontri durante i quali sono stati 7 i manifestanti feriti e fermati e il Sicobas quindi ha annunciato che proseguirà ad oltranza lo stato di agitazione nazionale su tutta la filiera FedEx. Sempre venerdì c'è stato anche lo sciopero nazionale della sanità pubblica e privata proclamato dall'USB in coincidenza con il G20 della salute. Ci sono stati presidi e manifestazioni in tutta Italia, a partire da quello di Roma davanti al Ministero della Salute, e il giorno dopo, sabato, c'è stata una grande manifestazione nazionale che alle 14 è partita da Piazza della Repubblica ed è finita in Piazza San Giovanni, a cui hanno preso parte circa 5.000 persone. Questo ci mostra che ad oggi ci sono dei momenti di lotta, delle vertenze aperte, bisogna continuare a rimanere in piazza e a farsi sentire. Abbala con me, abbala fama, abbala sed, abbala muove, abbala mez, abbala mo, abbala con me. Se non abbala mo buona, non bo dunga, non bo sono. E se non abbala mo vera, non no pega, non no crea. E se non abbala mo buona, non bo dunga, non bo sono. E se non abbala mo vera, non no pega, non no crea. Abbala basso, borra, sborri, eluni. وزادك ومعي ورقص وزها وغير زيد ننسى الماضي ويا الوليد يا ليلي أبالو فوق أبالا ديم أبالو ريتم أبالا هكوين فين أبالا مو أبالا أبالا قمبي balla luna, balla stella, a balla cora, balla bella, a balla mo, a balla con me. E se non abballamo buon, non vo donga, non vo son. E se non abballamo ver, non lo bega, non lo crer. E se non abballamo buon, non lo donga, non lo son. E se non abballamo ver, non lo bega, non lo crer. Abballa, abballa. Nisto hatta uyen ulid, washtah kul yom ghin zid. Ta'alim wa qara bil misil, gillil zahi wa ma mrid. Intanto invece il presidente della regione Campania sembra aver individuato i principali responsabili della situazione attuale, che secondo lui sono i percettori del reddito di cittadinanza. Secondo De Luca, infatti, chi percepisce il reddito di cittadinanza è una sorta di accattone nulla facente, un parassita che va attaccato, aggredito con i suoi soliti modi pacati, e perché nella fattispecie, siccome la stagione turistica sta per riprendere dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, chi percepisce il reddito di cittadinanza, secondo De Luca, rifiuterebbe invece di fare lavori stagionali. E qual è la narrazione che De Luca vuole far passare? È chiara quando dice che il lavoro ti consente di vivere e non è il bonus che ti permette solo di passare un'estate a Palinuro alle Baleari. È chiaro che si tratta di una mistificazione voluta, perché probabilmente questa di far passare i percettori del reddito come degli scrocconi deve nascondere quello che è il vero problema della Campania, ossia la mancanza di lavoro. Ed è chiaro che De Luca sia corresponsabile di questo problema. Ed è chiaro che debba nascondere, ad esempio, il fallimento del concursone che aveva spacciato come grande, incredibile soluzione che avrebbe risolto tutti i problemi del Sud con 500.000 di domande presentate, visto che oggi abbiamo in piazza a chiedere l'assunzione quelli che, dopo aver superato non una ma due prove scritte, dopo aver fatto un anno di tirocinio presso le pubbliche amministrazioni, ora devono ancora svolgere un'ultima prova orale e poi forse venire assunti con una percentuale di assunzione molto molto inferiore rispetto ai posti, alle carenze di organico, ai posti che ci sono da coprire. Quindi è palese che il piano tanto sbandierato da De Luca si sia rivelato un incredibile fallimento, ed è ovvio, come sempre nella strategia comunicativa di De Luca, che deve trovare un nemico a cui dare delle colpe per nascondere quelle che sono le sue responsabilità oggettive. Tengo una voglia e fa niente. Come solo di da capo, metterà su da pensate e si incontra va via, chi ha inventato fatica, io ti giuro la cita perché... Tengo una voglia e fa niente. Si ha fatica era buona, ma consigliavo dottore. Si ha fatica era buona, non pregavano i preti. Benedizione alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa niente. Chi m'ha mis in catena, passa vita in vacanza, io fatica e fatica e passo pure da stronzo, vaffanculo alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa niente. A fatica e onora, ma si mascanza meglio ancora. Beato chi con me sa riesce a scansa. Tengo una voglia e fa niente. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E così si conclude la seconda puntata di Gatto Selvaggio, lavoro, precarietà e conflitto. Grazie a tutte e a tutti per averci ascoltato e ci vediamo la settimana prossima, sempre qui in onda su Radio Asilo. C'è una folla senza lavoro, gente che perde, non trova niente. Stanno aspettando che passo vinto. Go passa terra, terra e ricchezza. Chi ci comanda non dà una carezza, non sanno niente, la gentilezza. Pensano i figli, hanno solo munnezza. Go passa terra, terra e giustizia. Tutto potere, puttane e vizi. C'è stanno un mondo che fa dei vizi. Prima si mangia e poi daranno giudizi. Coppa sta terra, terra illusione. Stanno appicciando tutte passioni. Senza conoscere la vera ragione. Mettono a rischio su poco d'amore. Povero mondo, povero mondo, povero mondo. Povero mondo che non trova libertà. passatelle, terri malizi, quando si chiede adesso spizio, come si odimbe, servuto a niente, restano sulle senza parini, con passatelle, terri famiglie, c'è una mamma con quattro figlie, sotto un ponte, mi sana via, stanno aspettando, capasse via. Povero mondo, che non trova verità. Povero mondo, che non trova libertà. Non passa terra, terre malizie. Quando si picchia del resto spizio, come si odimbe, servuta a niente, restano sulle senza parente. Con passatelle, terre e famiglie, c'è sta una mamma con quattro figlie, sotto un ponte, mi sana via, stanno aspettando, che passa via, che passa via. Povero mondo, povero mondo, che non trova verità. Povero mondo, povero mondo, che non trova libertà. Passatelle, terre famiglie, c'è sta una mamma con quattro figlie, sotto un ponte, mi sana via, stanno aspettando, che passa via.